siamo di nuovo qui alle officine Babilonia. Ops, ma perché sbaglio sempre? Non lo so. Siamo qui nella sede del Moci. Le officine Babilonia ospitano una fantastica trasmissione che si chiama Figli di, che prima o poi insomma decollerà definitivamente, vero Ernest? Forse, del domani non si sa. Secondo me volevi citare del domani non c'è certezza, ma va bene lo stesso. Siamo tutti precari, siamo precari, lo so che volevi citare quella cosa. Va bene, comunque insomma siamo qui seduti su questo fantastico divano, che non è male, dice Ernest, effettivamente è comodo, ci siamo a... volevamo andare a prendere un po' di birra, dico poi non so perché non siamo andati, lo so perché non siamo andati, perché ci siamo messi a parlare di una cosa molto interessante. Infatti c'è qui ancora il nostro artista Tarantino, va bene questa definizione? Un artista, è sempre un artista sei. A noi piacciono molto queste... espressione artistica, anche perché in tempi lontanissimi abbiamo anche praticato leggermente, e va bene. Insomma, parlavamo di questo progetto, ce ne vuoi parlare ora anche qui agli amici di Transizione di Fase? Allora, il progetto di cui si parlava era il progetto Acheronte. Allora, il progetto Acheronte prende questo nome perché il tutto nasce, per cominciare, è un progetto di writing e street art. Il progetto di writing e street art che si tiene a Taranto, speriamo di farne il numero di edizioni maggiore possibile, anche se per il momento siamo alla prima. La prima edizione che ha portato il nome del progetto, del gruppo organizzativo e tutto, la prima edizione si è svolta praticamente in un sottopassaggio che si trova nel centro della città nuova di Taranto, in una via che si chiama appunto Via Dante. Da Via Dante, Divina Commedia, Divina Commedia, il fiume Acheronte, che ideologicamente è quello che noi abbiamo dovuto attraversare per arrivare all'inferno e poi dall'inferno cercare di arrivare al paradiso, se vogliamo mettere così. Questa metafora alla fin fine abbiamo deciso di sfruttarla per descrivere il fatto che comunque in una città come Taranto, dove ricordiamo è, ahimè, la città più inquinata d'Europa e dove ci sono problemi di classe lavorativa, classe operaia, e guarda, non te li sto a dire tutti perché sono troppi, ci siamo trovati a cercare quindi di combattere l'ennesimo fenomeno agghiacciante di questa città, ovvero un'ignoranza a livello culturale e artistica purtroppo molto elevata. Con questo non vogliamo dare nessuna colpa ai cittadini che giustamente vivono nel loro quotidiano e più che vivere molto spesso possiamo dire sopravvivono, perché già prima della crisi la situazione economica non è sempre stata le migliori a Taranto. Ricordiamo che il comune di Taranto è stato il secondo in dissesto dopo quello di Napoli. E quindi questo progetto nasce per dare una spinta culturale alla città nell'ambito di quello che noi amiamo di più, che appunto sono il writing, la street art. Quindi nel discorso di questo progetto nasce appunto l'idea di utilizzare il writing secondo la filosofia del decoro urbano. Il writing, ricordiamo, che nasce come una cultura di protesta, una cultura di protesta che nasce a New York nei primi anni 60 da parte di tutte quante quelle persone rinchiuse, tra virgolette, e dimenticate nei ghetti popolari americani da parte di quella media alta borghesia che non aveva nessuna intenzione di far vedere che la nazione capitalista aveva dei pro e contro. I pro erano che chi era ricco diventava sempre più ricco, però il contro, ovvero la povertà dei bassi fondi distruttiva, non veniva mai evidenziata. Questo perché? Perché in questo modo facevi vedere quanto era bello il capitalismo, quanto le cose funzionassero bene e quanto fosse il sistema migliore. C'è sempre un discorso politico anche questo. Quindi i primi writer a un certo punto, anche se in un discorso molto più povero culturalmente, hanno semplicemente iniziato a dire basta, noi siamo stanchi di essere dimenticati, noi esistiamo e non abbiamo nessun diritto di essere cancellati e rinchiusi in quello che è un ghetto soltanto perché a voi va bene così. Bene, abbiamo questo movimento di protesta nel corso degli anni si è evoluto e adesso in Italia si porta avanti un discorso di, anche di decoro urbano. Il decoro urbano quindi è un compromesso per l'appunto tra la cultura del writing e la popolazione, in cui si lavora insieme per rendere migliore la città e per cancellare dal suolo cittadino non più le persone che non fanno comodo, ma tutti quanti quegli spazi degradati e distrutti o all'insegna del grigio, che è qualcosa che per noi writer è assolutamente intollerabile, che appunto riempiono enormi spazi della città, come era appunto questo sottopassaggio prima della prima edizione appunto della Cheronte, edizione chiamata traversata perché appunto riprendiamo l'idea della traversata di un fiume. Ti faccio qualche domanda, perché altrimenti parlare, cioè mi pare di capire che ti piace parlare tanto, però che bella musica che intanto sentiamo, non è proprio qualche fatto, non sappiamo. Ebbene sì, c'è questa musica arabeggiante, perché vi ricordo che siamo sempre in questo Media Center. Ops, di nuovo Media Center, vabbè. Comunque, io ascoltavo queste parole, questa volta l'ho ascoltato. Ok, sì, è vero, lo ammetto. Bene, e mi è piaciuto molto, davvero molto, questo l'idea di che avete avuto di utilizzare questo termine di Acheronte, questa idea proprio di passaggio, di transizione, se vogliamo, da uno stato all'altro, questo dover attraversare tutto il negativo e il marcio che c'è per giungere poi a una dimensione di positività, quale appunto il paradiso nella visione cattolica, vabbè, dalla quale noi siamo molto distanti. Mo anche tu sei distante. Anche noi siamo assolutamente distanti, abbiamo preso l'idea soltanto perché ci è capitata via Dante, cioè abbiamo capito come cavolo a merenda, allora ho detto, beh, vabbè, dai, prendiamo questa idea di transizione, di viaggio, diciamo. Ebbene sì, però ti volevo chiedere questo. C'era anche una canzone che parlava, non mi ricordo di chi, tipo parole contro grigio, rumore contro silenzio, dovrebbe essere una canzone degli Assalti Frontali, i primi Assalti Frontali, quando c'era quella ragazza che poi è morta, che non ricordo assolutamente come si chiami, e vabbè, i nomi vanno proprio male. Però insomma la domanda era questa, c'è questa musica che sinceramente un po' mi sta rincretinendo, meno male che non c'è più ora. Comunque, la questione è questa, insomma, vedere questi grandi muri grigi, eccetera, eccetera, e dopo qualche giorno invece passa un artista e lascia un segno colorato, ecco, quali sono invece, secondo te, le sensazioni che può generare un'azione di protesta, un'azione forte come questa, quali sono le sensazioni che può generare nella gente comune? Allora, per incominciare non vado per ipotesi, vado per certezze documentate, perché il mio gruppo, quindi il gruppo Acheronte, dopo questa iniziativa si è documentato su quali sono state le risposte da parte sia del tutto quanto il discorso delle testate giornalistiche, sia nel discorso popolare, appunto. Allora, la risposta è stata enormemente positiva, non totalmente, perché non sono una persona falsa e dico le cose come stanno, che appunto ha portato certamente la cittadinanza a spaccarsi in tre gruppi. Allora, i due gruppi più numerosi sono il classico personaggio menefreghista, che se il muro era grigio, lo era colorato, non gli frega niente, quindi tranquillamente gli sta bene la cosa come gli stava bene prima. Poi le persone che hanno enormemente appoggiato l'iniziativa perché erano stanche di questo posto sporco e soprattutto all'insegna del grigio, perché erano due tipi di grigio: il grigio del cemento, perché questo sottopassaggio non era dipinto in nessun modo, era semplicemente cemento vero e crudo in piena città, quindi il classico mostro architettonico firmato anni 70 italiani. E poi aveva quel grigio nerastro dello smog delle macchine, che noi per riuscire a dipingere abbiamo dovuto togliere con delle scope, perché tutti i primi 30-40 centimetri del sottopassaggio erano totalmente neri, partendo dalla base del pavimento, dovuti a quello smog delle macchine che passavano lì sotto. Ma hanno chiuso il sottopassaggio quando voi operavate? Allora, il progetto Acheronte è un sottopassaggio con quattro corsie, a due sensi di marcia, e siamo riusciti in collaborazione con il servizio di viabilità del comune di Taranto a far chiudere per l'appunto la corsia adiacente al muro su cui stavamo lavorando. Abbiamo dipinto soltanto metà del sottopassaggio, l'altra metà la dipingeremo nella seconda traversata. E come ti dicevo, quindi tornando al discorso delle opinioni cittadine, quindi abbiamo avuto un enorme appoggio da parte della città. Ci sono state sulla la nostra pagina Facebook, che aveva soltanto un numero di mi piace, diciamo, no? Esiguo, parliamo di una sessantina di mi piace. Dopo l'evento è salita in nemmeno una settimana a oltre 225, e adesso sta continuando a salire. Cioè io ogni giorno che mi connetto per controllare la pagina noto sempre nuovi mi piace, persone comunque che controllano le foto, le condivisioni delle foto, dei lavori sono state tantissime, e i graffiti, cioè, hanno girato molto in rete, la pagina anche per questo continua a salire. A noi questa è una cosa che fa piacere, perché ovviamente una pagina ben seguita non fa altro che portare a una maggiore conoscenza del gruppo, più che associazione, sul territorio, che si occupa di questo. Tant'è che una scuola elementare ha anche contattato il gruppo Acheronte tramite il comune di Taranto, per appunto chiederci una partecipazione a un loro progetto che purtroppo era già quasi finito, siccome l'associazione Acheronte si occupa culturalmente della conoscenza e la cultura del writing e street art, non è stato possibile, anche se con la promessa di una collaborazione futura. E dal punto di vista invece di chi è stato contro questa cosa, beh, abbiamo un po' riso effettivamente. Ci sono arrivati soltanto due comunicati contro questa cosa, e beh, le persone che l'hanno fatto sono assolutamente ridicole. Questo perché parliamo una di queste persone, posso fare nomi? Sì, ok. Allora, una di queste persone è l'ex sindaco di Taranto, Giancarlo Cito, famoso per essere stato a suo tempo militante nelle squadre fasciste tarantine, quindi parliamo di una persona che picchiava compagni, faceva attentati, che è diventato sindaco di Taranto. Ricordiamo questa cosa. Questo perché? Perché nella nostra città, come dicevo prima, l'ignoranza è una cosa dilagante, quindi questa persona è quella che prende molto, no, il tarantino un pochettino più in crisi, perché cioè, il discorso dell'ignoranza non è una cosa che va vista come un insulto, assolutamente. Io conosco un sacco di persone, purtroppo a Taranto stanno veramente messe male, ma stanno messe male perché la classe dirigente le vuole messe male, perché sono voti facili, basta che gli fai una promessa, un po' di posti di lavoro, ti mettono la firma al partito, il voto e ciao. Questo, cioè, questo discorso del partito che sfrutta il voto funziona ancora a Taranto più che mai. Quindi questo personaggio che ci ha attaccato, di evidente provenienza politica, ci ha attaccato come? Allora, siccome all'evento hanno partecipato alcuni artisti di fama internazionale, tra cui ricordiamo i grandi di Padova e Bologna, Made 514, Dado e Ax, a cui della EAD Crew, ovvero Escuela Antigua Disciples, a cui voglio portare tutti i miei saluti, perché sono stati veramente dei grandi e ringraziamo tantissimo per la loro partecipazione senza alcuno scopo di lucro, cosa che ormai nemmeno più tutti i graffitisti sono disposti a fare. E quindi, dopo che hanno esposto in via Dante questi graffitisti di fama internazionale, che hanno esposto dalla Cina al Brasile, dal Palazzo Orsini di Venezia all'Austria, all'America, di recente stavano parlando come se fosse cosa all'ordine del giorno una mostra a New York, questa persona non ha potuto insultarli, non ha potuto insultare il progetto, ha dovuto necessariamente, invece di chiamarli scarabocchi come fanno di solito i suoi collaboratori, è stato costretto nella sua trasmissione locale a dire che erano disegni, che per noi già è una grandissima vittoria. Abbiamo messo un tappo in bocca a questo personaggio patetico. Aspetta, passo a Ernest. Ma non ancora opera d'arte, evidentemente. Il disegno, come quello dei bambini, no? Stanno a fare il disegno. Cioè, non sono scarabocchi, amore. È un disegno. La bambina ha fatto il disegno. Un'opera d'arte ancora no. Sì, l'essere passati già dallo scarabocchio al disegno da un fascista è già una vittoria enorme, perché tu l'hai messo in condizione di non poter rispondere. I fascisti li vogliamo solo su Marte. Ma nemmeno, perché poveri marziani. Comunque. Sì, ho capito, riferito al film Fascisti su Marte. Quindi questo personaggio, quindi, è attaccato, diciamo, questi più che attaccare noi, ha attaccato la direzione del sindaco, che ricordiamo un sindaco di sinistra, ex Rifondazione, che praticamente lo accusava, diceva: sindaco, ma questo è il tuo modo di sprecare risorse comunali, insomma un sacco di cretinate. E ha fatto partire una frase che mi ha fatto tremendamente ridere, mi ha fatto capire quanto sia critica la situazione di Taranto, ovvero il discorso chiamando per nome il sindaco. Questa è stata la frase con cui ha annunciato che lui voleva cancellare tutto ciò che è stato fatto a Via Dante. E zio, non ti preoccupare, che tra poco è finito il tuo mandato, tra un po' te ne devi andare, quindi quando tu te ne vai prendiamo quelle belle pompe, quelle grandi, e cancelliamo tutte cose. Quindi da questo capiamo come era un discorso di quasi una lotta tra bande a livello partitico. Quindi queste persone, ti posso dare un altro suggerimento: la volta prossima di semplicemente a questi cari amministratori quanto spendono semplicemente ogni anno di arredo urbano nuovo e quanto nella manutenzione dello stesso arredo urbano. Solo semplicemente fagli questa cazzo di domanda e vedrai che poi qualche bomboletta, in realtà, che alla fine quanto è costata questa cosa? L'associazione ha messo 500 euro tra sponsor e quante altre cose. Con 500 euro in realtà, per quanto riguarda gli arredi urbani, non li spendono neanche per carta da bollo per fare tutte la pratica. Cioè, che stiamo parlando? Sì, aspetta, però io ti ho detto 500 euro l'associazione, poi la mia crew ha dovuto finanziare sì, ci sono ragazzini di 15 e 16 anni che pur di far andare con la loro paghetta settimanale. No, peggio ancora, non la paghetta settimanale, magari la paghetta settimanale, hanno rinunciato ai propri regali di Natale. L'evento si è svolto a febbraio, loro a Natale hanno preso la loro 50 euro di Natale che i genitori, la famiglia, i nonni gli avevano regalato tutti insieme, se la son tolta e hanno finanziato questo progetto. E quindi questa persona immonda adesso ha proposto di cancellare questa cosa perché semplicemente non a lui gli frega qualcosa, perché a lui non ne frega niente assolutamente, perché deve fare lo screzio al sindaco. Deve fare lo scherzo al sindaco perché il sindaco di sinistra è lui di destra. E il discorso ancora più ridicolo è che lui accusa il sindaco di sprecare soldi, pur non essendo da parte del sindaco, cioè sono un anarchico, per me il voto non è una cosa che appoggio e sono contro ogni forma di delega. Il discorso è che lui, per ridicolo, vuole spendere in pittura bianca non si capisce quanti soldi per ridipingere un sottopassaggio di circa 300 metri. Parliamo... sarà affidato da una ditta, tra l'altro, quindi una ditta si prenderà non si capisce quanto per ridipingere 300 metri quadrati per, cioè, no, 300 metri di lunghezza, scusate, per un'altezza variante dai 5 metri ai 3 metri e mezzo. Questa cosa sta uscirà settimana prossima, molto probabilmente venerdì, su WeMag, dove abbiamo rilasciato un'intervista recentissima, e il discorso è proprio questo. È assurdo, a Taranto si va avanti con la lotta tra bande partitiche che assolutamente sono ridicole e indegne. Quindi questo è stato il primo motivo di ridere di questo personaggio, eppure abbiamo già preparato la nostra controrisposta. Oltre a essersi già parzialmente infiltrati nella sua stupida alleanza politica, perché se questo partito che si sta candidando è un colabrodo, ci sono dentro di tutto, da fascisti, democratici, ex rifondaioli, ex SEL, di tutto, perché questo è un partito che mira al potere a qualunque costo, non al far qualcosa, è un partito che mira all'andare a mangiare in tutti i modi. E già abbiamo capito esattamente come questa persona, che è stata condannata a non so quanti anni di carcere per associazione a delinquere, associazione mafiosa, adesso è interdetta alla possibilità di candidarsi. Quindi lui, pur di candidarsi, sta candidando il figlio, e sui manifesti elettorali esce Cito, che è lui, quindi in realtà il figlio Mario, per tutta la città Marionetta Cito. E ricordiamo che alle scorse elezioni circa 3.000 voti sono stati annullati perché, come ricordiamo, la popolazione che vota questa persona purtroppo è una popolazione molto disagiata, che vede nel mito di questo ex sindaco l'unica possibilità di salvezza. Sono stati annullati circa 3.000 passavoti alle scorse elezioni comunali perché hanno scritto Giancarlo Cito invece di Mario Cito. Questa porta a farvi capire quanta ignoranza e quanto giocava questa persona su un populismo sfrenato. Quindi dopo questo attacco patetico, a cui noi siamo pronti a rispondere cercando di far registrare come beni culturali il prima possibile i lavori svolti a Via Dante, in modo che non possa cancellarli appena salito al potere, ma comunque almeno debba seguire un iter molto più lungo, insomma li renderemo il più difficile possibile, abbiamo l'altro attacco che abbiamo ricevuto, e beh, non potevano mancare quei 5 falliti che definirli fascisti di Taranto forse sarebbe anche un insulto a, per loro, la memoria di quel folle di Mussolini, perché definirli fascisti, dei conigli del genere, sarebbe a dir poco ridicolo. Però chiamiamoli fascisti così per ridere, tanto alla fine non c- per capirci, diciamo, questi quattro, queste quattro persone, perché sono 4 o 5, o meglio, il numero di fascisti a Taranto varia da quante volte vengono sprangati dai compagni, sostanzialmente. Mi piace. Grazie Ernest. E questa cosa, quindi, loro si nascondono dietro un consigliere comunale. Questo consigliere comunale, Vietri, ha fatto questo comunicato, appunto, che è ancora più ridicolo di quello di Cito, perché Cito almeno si è informato un pochettino e ha capito che non ci poteva attaccare su cosa è stato fatto, perché c'era un artista di fama internazionale. Lui nemmeno questo, cioè lui proprio è andato, ho capito, a cazzo suo, come gli gira, a raccontare stronzate in giro, come fa, vabbè, è una cosa classica dei fascisti, non c'era a stupirsi alla fine. E il discorso è proprio questo, quindi ha fatto questo comunicato di un nome del loro, da questo loro gruppo, che ovviamente non ha il coraggio di chiamarsi gruppo fascista, come Casa Pound, come Forza Nuova, si nascondono dietro nomi che non richiamano al fascismo, ma in realtà sono associazioni a delinquere fasciste famosissime. Quindi per questo il discorso di questo gruppo, ancora una volta mascherato da gruppo populista e gruppo sociale, perché ormai è la moda fascista quella di prendere le iniziative dei compagni e farle loro, perché non hanno nessun seguito, non hanno una cultura sociale alle spalle. E quindi hanno presentato questo comunicato sul loro blog, che per fortuna non è stato pubblicato a nessun giornale, perché a quanto pare il seguito che hanno è molto misero. E che praticamente annunciava, il titolo di questo articolo era arte, vabbè, ve lo sintetizzo in pochissimo: ennesimi attacchi al sindaco. E poi sono divertente vedere le foto che hanno pubblicato. Invece di pubblicare foto di volti e quant'altro, che possono visionabili da tutti sulla pagina Right is not a crime, oppure sulla pagina del gruppo Acheronte, appunto. Dopo tutto ciò hanno pubblicato quindi foto soltanto di lavori dei bambini più piccoli che sono venuti all'Acheronte, perché ricordiamo che l'Acheronte ha dato spazio anche a tutti quanti quei ragazzini di 15 e 16 anni che sono costretti a rischiare di farsi male nei capannoni abbandonati, che gli cade qualcosa in testa o si spacca il muro addosso a loro, per andare a dipingere, perché non esiste nessuno spazio a Taranto per fare una cosa del genere. Quindi comunque questi ragazzini sono costretti a andare in posto che magari non, cioè, dovrebbe essere evitati da chiunque, per riuscire a dipingere, per riuscire a sfogare questa loro passione. E hanno preso quindi questi disegni, ovviamente di qualità molto scadente per mancata esperienza, non per altro, e oppure disegni più difficili da comprendere, strettamente quindi legati a un discorso di writing e street art, quindi un discorso artistico molto stretto che non è per tutti magari. E pur di giustificare questa loro cosa, non fotografando poi volti di iperrealismo tridimensionali di persone comunque di un certo livello, non fotografando una rappresentazione rivista in chiave graffitistica di un famoso quadro di un pittore francese che rappresentava appunto Caronte, che trasportava sul fiume Caronte le anime dei dannati. Quindi proprio la diffamazione più totale di qualcosa, cioè fatto esclusivamente in modo distruttivo, cioè non, come al solito non propongono nessuna critica, propongono soltanto distruzione, perché non sono loro al potere, è un discorso, perché sono fascisti e sono invidiosi, soprattutto perché sono invidiosi, è il fatto che la loro non cultura legata a un pazzo che, ringraziando il cielo, i partigiani hanno fatto fuori un bel po' di anni fa, ormai è morta e sepolta. Cioè, il fascismo è morto, Mussolini non esiste più. Cioè, vi passo Ernest. Ernest vuole ricordare che a Piazzale Loreto c'è ancora posto. Sempre a Piazzale Loreto c'è ancora posto. E io aggiungo anche, aggiungo, visto che recentemente questi nostalgici hanno voluto ricordare un giorno, che è quello delle foibe, perché adesso hanno avuto anche questo blasfemo riconoscimento nazionale di martiri, ma io ricordo invece che infobare un fascista non era un reato allora e non lo sarà neanche adesso. Quindi a questo voglio aggiungere che, finito il discorso di questi due comunicati patetici, posso dire un successo assoluto da parte dei writer in questa cosa, e finalmente ci siamo presi uno spazio in questa città. Il progetto Acheronte è questo: prenderci spazio, fare cultura, aggregazione e dare spazio a tutti coloro che hanno voglia di migliorare la propria città. Oh, che bello! E questo progetto, guarda, mi sembra molto vicino a quello che molti di noi, ma non tutti, dicono in quest'area. Cioè, siamo venuti qui, abbiamo occupato questi spazi, il Rialzo, le officine Babilonia, perché prima ancora, nel 2005, come ci ricordava l'altro giorno Ferdinando, il gruppo dei Senza Nome effettuò qui un'azione un po' situazionista, che si chiamava Escrementi, e ha denunciato l'abbandono di questo spazio, e quindi noi abbiamo pensato bene di riprendercelo. È difficile comunque mantenere degli spazi, soprattutto quando ci sono a fianco a noi persone che non la pensano allo stesso modo. Dovrebbe essere questo uno stimolo per andare avanti, però molte volte proprio queste altre persone ti vedono come una minaccia, forse perché non riescono a comprendere quello che tu sei davvero. Ma io ora volevo un'ultima domanda. Se poi vuoi parlare ancora, per me puoi parlare, guarda. Ci mettiamo qui, ci affezziamo. Ernest va a comprare un po' di birre, non lo so. Ernest dice che ha fatto 40 anni e non beve più. Infatti mica tu devi bere, devi andare a prenderle, Ernest. È diverso. Quindi la domanda comunque è questa. Io amo divagare, vabbè. La domanda è questa: quali sono i prossimi progetti volti alla, proprio a questo progetto che dici tu? Quindi il gruppo Acheronte che cosa farà già da domani? Allora, il gruppo Acheronte in questo momento è impegnato a organizzare Acheronte 2, e vi dico che, cioè, Acheronte 1 si sono andati quei 1000 euro e ci è andata bene. Adesso c'è Acheronte 2, che siccome si vuol crescere, non si vuole rimanere statici in quello che si è fatto, ci servirà molto di più. Quindi il nostro momento pressante purtroppo è trovare sponsor, cercare di far serate comunque di popolari in cui ci si riesca a sostenere. Noi ci appoggiamo in questo a un gruppo popolare cittadino di cui voglio parlare un attimo, perché sono dei ragazzi che, oltre aver dato la possibilità a noi di crescere, stanno facendo veramente tanto per la nostra città. La nostra città, come dicevo, è grandemente abbandonata al degrado, e a un certo punto un gruppo di giovani, circa una quarantina di base, hanno deciso di unirsi e di creare. Questi giovani appartengono un po' a tutto, cioè sono compagni, ragazzi appartenenti al movimento della curva, e cittadini normali, chiunque, cioè ci sono anche signore anziane oramai. Cioè è diventato un progetto veramente conosciuto in tutta la città, e questo progetto prende il nome di Ammazza che Piazza. Ammazza che Piazza è un discorso prevalentemente ambientalista, però non sono quegli ambientalisti che parlano per cose assurde, per progetti, no, i fricchettoni, no, quegli ambientalisti che amano parlare dei problemi grossi senza vedere poi a terra che cosa sta realmente. Siccome loro invece hanno voluto fare il contrario, hanno fatto ambientalismo dal basso, se lo vogliamo così chiamare, senza alcun colore politico, pur non lasciando spazio ai fascisti, perché ricordiamo, Taranto è una città antifascista, e potete scrivere fascista sui muri quanto volete, però poi vi prendiamo a calci a pedate ogni giorno. Dopo questo vogliamo dire appunto come abbiamo portato avanti questo discorso di ambientalismo dal basso, partendo dal nulla. Cioè loro prendevano le piazze distrutte, sporche, piene di spade, cioè di siringhe, scusate, gergo comune, piene di siringhe, vetri rotti, bottiglie, muri totalmente ricoperti da, non da writer, ma bensì da cazzoni che vanno a fare la scritta alla ragazza, vanno a fare la scritta stupida e così via. Hanno preso questi posti e li hanno rimessi a nuovo a spese loro. Si sono messi cittadini, ragazzi, hanno preso paletta e scopa e si sono messi a ripulire le piazze, a ripiantare gli alberi, a rifare le recinzioni dei parchetti, a rirendere agibili i pochi posti dove i cani possono stare, perché a Taranto non esiste neanche un discorso di dove poter lasciare un cane libero. Un cane per il Tarantino deve vivere al guinzaglio, un animale che nasce libero deve morire in una gabbia. No, su questo non siamo d'accordo. E quindi questi ragazzi hanno portato avanti questo progetto che ha avuto un'importanza enorme, tant'è che a un certo punto, un aneddoto che a me piace raccontare su questo discorso, è stato l'avvento alla campagnetta di Via Emilia della polizia e dei carabinieri, quando riprendendoci un posto e ripulendolo abbiamo per l'appunto iniziato a fare dei graffiti sulla città, in questo posto degradato e distrutto, tant'è che quando abbiamo iniziato a fare a rappresentare delle foto di iperrealismo rappresentando monumenti cittadini e quindi comunque riqualificando certamente un posto dedicato all'abbandono, quando la polizia e i carabinieri sono venuti a contestarci gli atti vandalici di imbrattamento, sono scese vecchiette con i cani e i bastoni e gli urlavano dai balconi di andar via. Cioè, siamo tornati a un discorso dove la polizia, quando continua con i suoi abusi dovuti a leggi che sono tutt'altro che democratiche, vengono cacciati via dalla popolazione. A Taranto si è vista questa cosa di nuovo per la prima volta nel 2011, dopo che non si sa da quanto tempo non succedeva una cosa del genere. Quindi a questo io voglio dire grazie ai ragazzi di Ammazza che Piazza. E mi ricordo che la domanda originale mi sono dimenticato. È bellissima questa cosa. La domanda originale è: ma d'ora in poi il gruppo Acheronte che cosa fa? Che cosa farà? Ok, scusami. Allora, il gruppo Acheronte, mentre io ero qui a Cosenza a partecipare alla giunta di qualcosa di mio al centro sociale di Rialzo, si è mosso e hanno realizzato un graffito presso un sito tarantino in memoria di un compagno che io voglio ricordare morto purtroppo circa 2 mesi fa in un incidente d'auto. E questo compagno era Claudio Morabito, nonché uno dei fondatori del movimento di Ammazza che Piazza di cui parlavo prima, e una delle persone che per prima ha cercato il confronto con noi writer e ha voluto appunto darci uno spazio. Quindi il lavoro che è stato fatto adesso dal gruppo Acheronte è stato quello appunto di dedicare una parete a questo ragazzo che io ricordo con molto affetto e che voglio salutare perché so che da lassù ci segue. Quindi dopo questo lavoro, questo ragazzo che oramai purtroppo non c'è più, il gruppo Acheronte sta continuando con per il momento piccoli progetti come la riappropriazione delle piazze. Si Ammazza che Piazza ha pulito e ha reso inagibili le piazze, e noi ci siamo resi conto che è arrivato il momento di riprendercele, perché il questore dentro caso a Taranto, che adesso per fortuna se n'è andato, a furia di sgomberi e blitz forzati ha distrutto un movimento a Taranto radicato negli anni, che era il movimento di piazza. Quindi adesso è arrivato il momento di ricominciare a prenderci le piazze, ricominciare a fare aggregamento nelle piazze, perché le piazze sono dei cittadini e nessun poliziotto ce le potrà mai togliere. Quindi detto questo, queste piccole iniziative sono organizzate in modo molto semplice: uno stereo, un microfono e 2 tele, writer che dipingono, MC che cantano, breaker che ballano, gente che guarda, persino persone borghesi che si interessano alle opere realizzate, ci chiedono perché lo fate, perché non lo fate. Quindi questo è dialogare con la società, dialogare con la popolazione, fare controinformazione e controcultura. In seguito i progetti sono quindi Acheronte 2, ad Acheronte 2, quindi oltre a finire di dipingere il sottopassaggio che è stato fatto, perché ne è stata fatta solo metà, vogliamo aggiungere, trovare un altro sito in città, tanto ce ne sono tanti, e chiamare alcuni artisti di fama internazionale, quindi riavere l'onore di ospitare con noi Dado Made e Alex tra Padova e Bologna, e invitare altri membri della loro crew quale Pita e Yama e altri comunque presenti sul territorio nazionale e internazionale, Yama di New York per esempio. E quindi è questo il discorso: portare avanti un discorso di controcultura decorando la città. E se l'amministrazione, cito, salirà al potere e ce lo impedirà, ce li prenderemo come i writer hanno sempre fatto, ovvero nell'illegalità, perché siamo una cultura che non si può fermare. L'ha capito perfino quella, vabbè, mi trattengo da insulti, che poi magari è meglio, del sindaco Vabbè, del sindaco Alemanno di Roma, che è simpaticissimo, proprio un coccolone, direi. E il sindaco Alemanno di Roma persino è stato costretto ad ammettere che il writing è qualcosa che non si può fermare, quindi ha dato degli spazi, ovvero quattro muri per zona di Roma, ai writer. Adesso io vi faccio un piccolo appunto. Rendetevi conto di quanto sia grande Roma, rendetevi conto che un muro di 300 metri ce lo siamo fatti in 25 a Taranto. Quattro muri per quartiere, secondo voi quanti sono per Roma? Io vi rispondo, ve lo dico così per chi non ci arrivasse subito, sono molto pochi, cioè quattro muri se li bruciano in due, cioè è un discorso a dir poco ridicolo. È la classica azione fatta per dire appunto: visto vi abbiamo dato gli spazi, ah ma voi lo continuate a fare illegalmente, allora siete dei teppisti. Quindi a noi questi giochetti a noi fanno ridere, però purtroppo sul gran parte del popolo italiano fanno presa. Questo è il mainstream che continua a dare sempre le solite informazioni distorte. Non a caso, insomma, esiste transizione di fase, esistono i vari siti di informazione indipendente come Indimedia Italia, come Indimedia Calabria. Speriamo che prima o poi esista anche un Indimedia Puglia. Un tempo c'era Indimedia Taranto, se non ricordo male c'era un gruppo di Taranto che o voleva farlo o comunque insomma aveva creato una prima mail list. E beh, speriamo di avere sempre maggiori notizie dalla vicina Taranto, perché poi alla fine è molto vicina come città, insomma. Beh, se le ferrovie invece di pensare alla TAV pensassero a rinforzare le linee ferroviarie al sud, sarebbe ancora di più, perché 5 ore Taranto-Cosenza è qualcosa di veramente assurdo. Aspetta, 5 ore di cui non sono tutti i treni, perché a Taranto recentemente hanno tagliato altri treni, ovviamente, perché noi dobbiamo essere dimenticati. E hanno, io per fare Taranto-Cosenza ho dovuto prendere un autobus e due treni. 5 ore di viaggio per quanto sono? 100 chilometri? No, sono 200 chilometri. 200 chilometri, quindi 2 ore... 300 chilometri, quindi calcoliamo un 2 ore e mezza di macchina fatte in 5 ore, di cui... Sì, quindi insomma sono... è assurdo. Vi ripasso la nostra cara conduttrice, è troppo sobria, ripeto. Sì, è troppo dopo, soprattutto c'è Ernest che continua a dire 300 km, ho capito 300 km, ma se tu parli nelle orecchie io c'ho questo, una sorta di ritorno di cuffia naturale che non mi fa, insomma, non mi fa ragionare, perché insomma, ma no. Non so che ha detto, cioè non lo capisco, niente da fare. C'è qualcuno che dice che siamo stati già troppo su questa cosa. Io direi che una passeggiata per rinfrescare le idee, vedere se c'è qualche novità in giro. Di che dici? Ma secondo me si può fare, tanto qui di idee nuove ce ne sono sempre. Esatto, e con la speranza di venire a Taranto, transizione di fase, perché se volete noi una bella trasmissione la facciamo davvero. Fate una trasmissione di writer su transizione di fase? Si potrebbe fare, il problema è, vediamo un attimo con la strumentazione. Un computer. Mi hai fregato, sì, lo ammetto. Ok, dai, noi aspettiamo di avere questa bella trasmissione di writer da Taranto. E per ora ci fermiamo qui, poi magari ritorniamo, perché transizione non si ferma mai malgrado la censura. E vi lascio alla musica di transizione.